odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. E poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E ognuno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose noiose, ti scoccia che te ne parlo. Vorresti essere a un tavolo con la boccia nel ghiaccio. Tutti che fanno jersey short, tutti così estroversi. Poi dove conta più esserci che divertirsi tanto. Cercando un punto fermo, qualcosa che sia per sempre. Siamo pieni di tutto però non lasciamo niente. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio qui, cosa c'entro con loro? Mi chiamano lacrima per ciò che ho insegnato. Mi chiamano fuoco per il vuoto che ho lasciato. Perché amo, amo, amo. Perché odio, odio, odio. Perché dedico alla vita solo il meglio di me. Balliamo intorno alle bugie, viviamo tra le rovine. Passiamo vite sperando il meglio debba ancora venire. Insostenibile pesantezza dell'apparire. Materialismo, noi rapper ne siamo le cheerleader. Dai dimmi ancora che sono pesante. Quando inizio questi discorsi che chi se ne sbatte. Da dove vengo è più importante sapere incassare che darle. Io preferisco incassare ed andarmene. In mezzo a certi personaggi, esseri umani marci. Dio lo preferisco quando fai paesaggi. Dentro lucide macchine, queste lucide palchi che fanno splendere me, ma mettono in ombra gli altri. A seconda i tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio qui, cosa c'entro con loro? Mi chiamano lacrima per ciò che ho insegnato. Mi chiamano fuoco per il vuoto che ho lasciato. Perché amo, amo, amo. Perché odio, odio, odio. Perché dedico alla vita solo il meglio di me. La convivenza, la convenienza. Però si inizia sempre con e si finisce senza. Restare imprigionato qui è una nuova partenza. Ho avuto già due vite, ora ne inizio una terza. E sono stanco di parlare di com'è con te. Vorrei parlare di come potrebbe essere. Non essere noioso, non sentirmi più solo. Stare bene così, senza un posto nel mondo. Mi chiamano lacrima per ciò che ho insegnato. Mi chiamano fuoco per il vuoto che ho lasciato. Perché amo, amo, amo. Perché odio, odio, odio. Perché dedico alla vita solo il meglio di me. Meglio di me. Always had the best of me.